Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Città, gestori idrici e protezione civile al lavoro su una bozza di ordinanza, prioritario salvaguardare l'acqua potabile. A Gorizia, al via il processo per la morte del tredicenne morto in un pozzo nel luglio di 3 anni fa, 8 gli imputati. Pulsante di allarme, videosorveglianza rafforzata, nuove misure di sicurezza per i medici di guardia al Gervasutta di Udine. Verso la giornata mondiale sull'autismo, a Feletto la collezione creata nei laboratori di tessile e moda, a Pordenone il teatro. Lo sciopero degli operatori della sicurezza privata da Trieste, la richiesta di rinnovo del contratto e adeguamento degli stipendi. Origini Italia, al MIB di Trieste formati 18 giovani discendenti di emigrati italiani per favorire lo scambio commerciale con l'estero. 7:19 minuti di sabato 1 aprile, buongiorno da Daniele Letti, Gerita Micoli, uno sguardo al meteo, il cielo è da nuvoloso a variabile. Le temperature delle 6 a Trieste 10,5 gradi, a Udine 7 gradi, a Pordenone e Gorizia 6,5 gradi, a Tolmezzo 3,5 gradi, a Forni di Sopra 3, a Tarvisio 2 gradi, a Sappada 1 grado, sul Piancavallo 0, sul Monte Lussari 1 grado, sullo Zoncolan meno 1 grado, sulla costa a grado 10 gradi, a Lignano 6,5. Queste invece le previsioni a cura dell'ARPA. Per oggi al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata sarà probabile cielo variabile con possibili piogge sparse in genere deboli, ma anche qualche rovescio temporale, specie in pianura sulla fascia prealpina. Sui monti sarà possibile invece qualche nevicata in genere oltre i 1500 metri di quota. E apriamo questa edizione del giornale con una notizia di cronaca. Un incendio scoppiato la scorsa notte, le cui cause sono ancora in via di accertamento, ha distrutto un'abitazione privata a più piani in località Vosie, nel comune di Treppoli Gosullo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo, Paularo e Cercivento, allertati dalle due persone residenti nell'abitazione che si erano accorte delle fiamme. Conclusa a mezzanotte la campagna elettorale, oggi come di consueto prevista la pausa di riflessione che precede il voto. I cittadini sono chiamati ad eleggere il presidente della regione, a rinnovare il consiglio regionale e ad eleggere 24 amministrazioni comunali. Gli elettori per le regionali sono 1.109.395, suddivisi in 1.360 sezioni. Tra loro oltre 173.000 sono iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero. Per poter votare devono tornare in Friuli Venezia Giulia. Doppia scheda per quasi 213.000 elettori che voteranno per le regionali e per le comunali. 24 le amministrazioni che verranno rinnovate, tra queste Udine e Sacile, che prevedono l'eventuale turno di ballottaggio fra 2 settimane nel caso in cui nessun candidato sindaco ottenga il 50% più uno dei voti. Nel pomeriggio di oggi l'insediamento dei seggi, si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede, a cominciare da quelle per le regionali. La crisi idrica di fiumi e falde si sta ripercuotendo anche sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ritenute fondamentali per contrastare il cambiamento climatico, causa stessa della siccità. Intanto, ieri mattina a Palmanova si è riunito il tavolo con i gestori del servizio idrico per definire un piano di emergenza. Gestori idrici e protezione civile, tutti intorno a un tavolo a Palmanova per predisporre una lista di azioni nell'evenienza di estremo deficit idrico. Evenienza sempre più concreta ogni giorno che passa. Si lavora alla bozza di un testo, di un'ordinanza da sottoporre all'avvocatura della regione, che prevede una gradualità di interventi, divieto di lavare la macchina, innaffiare il giardino, interventi sui pozzi a uso privato. Obiettivi: salvaguardare prima di tutto l'acqua potabile, tenendo conto delle diverse esigenze dei territori, ma anche garantire omogeneità in tutta la regione ed evitare che ogni sindaco emetta ordinanze diverse. La crisi idrica non è un'ipotesi, ci siamo dentro pure a livello formale. Lo stato di emergenza è prorogato fino a fine anno. Nel 2022, proprio in virtù della condizione emergenziale, erano arrivati 4.200.000 euro per finanziare una serie di interventi sul sistema acquedottistico. Ai gestori del servizio idrico in questi giorni è stata chiesta anche una nuova lista di opere da finanziare. Sacchetti d'acqua e autobotti ci sono sempre, ma anche, in ottica aumento della resilienza delle reti, l'approfondimento di pozzi, la realizzazione di condotte e serbatoi. Ancora incerto l'ammontare di questo nuovo finanziamento, ma solamente la nuova lista del CAFC vale 15 milioni di euro. Sui pozzi artesiani da mesi è invece tutto fermo. In agosto 2022 è uscito un documento tecnico con proposte di soluzioni idrauliche, come riduttori e valvole, per regolarne i flussi. Per l'acquisto a dicembre la regione ha messo da parte 1 milione di euro, ma poi il bando non ha più visto la luce. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca giudiziaria: a Gorizia è iniziato il processo per la morte di Stefano Borges, caduto in un pozzo la cui copertura aveva ceduto. Il calendario delle udienze arriva fino a giugno del prossimo anno. Sarà un processo molto lungo, lo si capisce dal calendario delle udienze fissato dal giudice Francesca De Mitri. La prossima, con le prime testimonianze, sarà il 29 settembre, poi si andrà al 2024, al 10 maggio e al successivo 21 giugno. Al Tribunale di Gorizia si è tenuta la prima udienza del processo alle 8 persone rinviate a giudizio con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Stefano Borges, il tredicenne caduto in un pozzo del parco di Palazzo Coronini-Cromberg nel luglio del 2020. Durante le attività di un centro estivo. Gli 8 imputati sono quelli che all'epoca facevano parte del curatorio della fondazione. Rimane ancora sospesa la posizione di Simonetta Bonomi, soprintendente ai beni culturali del Friuli Venezia Giulia, che non aveva accettato l'incarico scrivendo al Ministero, da cui però non aveva ricevuto risposta. Secondo l'avvocato Antonio Montanari, i verbali delle riunioni dimostrano la sua assenza dal curatorio nel periodo antecedente la tragedia. La soprintendente ha partecipato una sola volta in qualità di uditrice nell'aprile del 2020. Il giudice ha ammesso tra le prove documentali le foto del luogo e del pozzo all'epoca dei fatti prodotte dal pubblico ministero Ilaria Iozzi e la consulenza tecnica dell'esame autoptico. Per la morte del tredicenne sono stati già condannati con il rito abbreviato 2 addetti alla sicurezza, il primo a 2 anni e 8 mesi, il secondo a 2 anni. Il direttore della fondazione Coronini Cromberg aveva invece patteggiato la pena a 1 anno, 11 mesi e 10 giorni con la sospensione della condizionale. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo i casi di aggressione al personale sanitario, al Gervasutta di Udine parte un nuovo protocollo per la sicurezza, aumentata la vigilanza sugli accessi degli utenti. A gennaio, uno dei casi più discussi in Italia è di aggressione al personale sanitario, coinvolte 2 giovani dottoresse di continuità assistenziale alla guardia medica del Gervasutta di Udine. Le riunioni in Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tra azienda sanitaria, regione e forze dell'ordine hanno portato al rafforzamento del sistema di videosorveglianza sia all'esterno che all'interno del Gervasutta, ma anche alla dotazione di un pulsante d'allarme in collegamento diretto con la sala operativa della questura. Dottori e dottoresse di guardia sono ora in possesso di cellulari aziendali e localizzatori per le uscite. Da accordi aziendali, ricordiamo, l'accesso indiscriminato di pazienti in guardia medica dovrebbe essere vietato. Il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale, ha detto che le misure di potenziamento della sicurezza riguardano per ora solamente il Gervasutta, ma l'obiettivo è di estenderle entro fine anno a tutte le altre sedi di continuità assistenziale. Ma sulle aggressioni al personale sanitario qualcosa si muove anche a livello nazionale. Dall'ultimo Consiglio dei Ministri è emersa la volontà del Governo di modificare il codice penale inasprendo la sanzione per le lesioni personali ai danni dei professionisti sociosanitari. Da Roma è arrivata alla questura di Udine l'indicazione di potenziare il posto fisso di polizia all'ospedale cittadino. Gli agenti passano da 2 a 3 per coprire una fascia oraria che va dalle 8 del mattino alle 23. Il questore D'Agostino non ha escluso un'estensione dei presidi di sicurezza anche per altri nosocomi della provincia. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. In vista della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo che si celebra domani, la Fondazione Progetto Autismo FVG, da anni impegnata nel sostegno alle famiglie delle persone autistiche, ha organizzato l'appuntamento Fuori dal Blu che si svolgerà alle 16 al centro diurno Home Special Home di Feletto Umberto. L'evento principale sarà la sfilata di abiti creati nel corso del laboratorio di tessile e moda, una capsule collection basata sullo strappo, l'azione principale adoperata dai ragazzi per aprirsi la strada verso le pratiche ed entrare in comunicazione. Ci racconta il senso dell'incontro e della giornata di oggi Enrico Baisero, direttore generale della Fondazione Progetto Autismo. Celebrare e informare le persone del Friuli Venezia Giulia sulle questioni dell'autismo. Il nostro tema è Fuori dal Blu e si concretizza oggi in una giornata dedicata a una sfilata di moda del nostro laboratorio, un laboratorio No Way di Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia Onlus. Il tema è quello innovativo, è quello di fare conoscere la bravura dei nostri ragazzi, dei nostri bambini nelle esecuzioni artistiche. Quanti sono le persone che soffrono di autismo nella nostra regione? Nella nostra regione si enumerano in centinaia. Solo a Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia Onlus stiamo seguendo 92 fra bambini dai 2 anni agli 11 anni e poi giovani adulti fino ai 27 anni. 92 persone, abbiamo una lista d'attesa di richieste per una quarantina di persone. In Friuli comunque sono diverse centinaia e rappresenta una vera e propria emergenza. Qual è la consapevolezza dei cittadini riguardo a questa malattia e quindi anche come trattare le persone che soffrono di questa patologia? Con una diagnosi precoce, diciamo che arriva entro i 2 anni, si può iniziare un percorso di supporto e abilitazione dei nostri bambini ed è indispensabile. Le persone devono essere informate, devono conoscere le opportunità che ci sono sul territorio per prendere in carico e dare dei servizi ai nostri bambini inizialmente, ma questo vale anche per i giovani adulti per i quali le famiglie si rendono poi consapevoli, come dice appunto il tema della giornata, consapevoli di avere un figlio autistico in famiglia. Operatori e beneficiari dei moduli per l'autismo di Pordenone hanno organizzato sempre per oggi un evento per le 15 al Teatro dell'Oratorio di Borgo Meduna, un pomeriggio in blu organizzato e promosso da Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Cooperativa Sociale Itaca, la Casa dell'Autismo e Compagnia Teatrale Don Chisciotte. I moduli nascono dalla coprogettazione tra Azienda Sanitaria e Itaca per implementare l'inclusione all'interno della comunità locale di giovani con autismo e problemi del comportamento. Lo spettacolo teatrale Lune diverse, quando i desideri si avverano, è l'esito conclusivo del laboratorio di teatro di Villanova e Borgo Meduna, realizzato con la compagnia Don Chisciotte di Luca Maronese, operatore di teatro ed educazione. La FISM, Federazione Italiana Scuole Materne di Pordenone, organizza il convegno a conclusione del progetto triennale Educare Eco, Povertà Educative, We Care, Esperienze di Fiducia. Dalle 9 al Teatro dell'Istituto Vendramini di Pordenone sarà l'occasione per un incontro-confronto sugli interventi sociali e di formazione a favore di bambini e famiglie in situazioni di povertà educative. Il progetto ha visto la partecipazione di 23 scuole FISM e di enti e associazioni partner impegnati per 3 anni nella promozione dell'educazione all'inclusione di bambini e famiglie. E ora parliamo di lavoro. Si è chiuso senza passi avanti l'incontro del tavolo sulla crisi di Aquileia Capital Service, la controllata di Bain Capital con sede a Tavagnacco, che si occupa di recupero crediti e che ha avviato la procedura di licenziamento per 52 dei suoi 100 dipendenti. L'azienda, si legge in una nota unitaria firmata dai sindacati di categoria FABI, FIRST CISL e FISAC CGL, non ha accolto le proposte avanzate dai sindacati con l'obiettivo di ridurre il numero degli esuberi attraverso il ricorso alle incentivazioni all'esodo anticipato volontario, il contenimento del lavoro straordinario, i contratti di solidarietà, la mobilità interna e la possibile assegnazione a mansioni diverse. L'azienda azienda, si legge ancora nella nota, ha sostanzialmente ritenuto non percorribili queste ipotesi in quanto considerate mero contenimento del costo del lavoro. Totalmente divergente la posizione dei sindacati, che rilanceranno le proprie richieste nel prossimo incontro con i vertici aziendali in calendario il 14 aprile. Chiedono un nuovo contratto e stipendi in linea con l'inflazione i lavoratori privati del comparto sicurezza, che ieri hanno incrociato le braccia e manifestato a Trieste. Uno sciopero regionale di 24 ore, un mese di stop agli straordinari e la manifestazione in Piazza Unità a Trieste. È la protesta dei lavoratori della sicurezza privata che chiedono il rinnovo del contratto scaduto ormai da 8 anni insieme all'adeguamento degli stipendi. Stefano Franzoni, segretario generale aggiunto UIL TUX Nazionale. Tutti parlano in questo momento di sicurezza nel paese. Qui ci sono le persone che tutti i giorni la garantiscono. Come si spiega questa contraddizione? Persone che lavorano per meno di 1000 euro al mese, che fanno turni massacranti. Qual è la risposta che il governo dà a queste persone? La soluzione sarebbe un contratto nazionale della sicurezza e salari in linea con l'inflazione in crescita. La paga media mensile per un operatore fiduciario è di 800 euro full time, per una guardia giurata 1070 lordi. Emanuele Ferretti, Filicams CGL Nazionale. Prevalentemente il punto in cui il negoziato si è bloccato è salariale, perché le proposte datoriali sono del tutto insufficienti, non rispettano gli indici inflattivi. Un trattamento che i sindacati giudicano indegno verso una categoria che è stata essenziale durante la pandemia. Hanno garantito la sicurezza e l'applicazione delle regole Covid, dei protocolli Covid su tutti i posti di lavoro, sui posti pubblici. Adriano Giacomazzi, segretario FISA ASCAT CISL Friuli Venezia Giulia. Già a settembre sembrava che il rinnovo fosse prossimo, poi con un gioco alquanto scorretto delle associazioni si è rimesso in discussione tutto. Il prossimo 6 aprile ci dovrebbe essere un altro incontro, speriamo risolutivo, e che finalmente un contratto nazionale venga rinnovato in questo settore. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si conclude oggi al Palazzo del Ferdinandeo di Trieste, sede di MIB Trieste School of Management, la 22ª edizione del corso Origini Italia, un programma di formazione specializzata in gestione delle esportazioni e sviluppo imprenditoriale destinato a giovani discendenti di emigrati italiani nel mondo. Ci ha spiegato come funziona il corso e quali sono le possibilità che offre il suo direttore, professor Stefano Pilotto. Il corso Origini Italia è un programma di formazione di 5 mesi, formazione in gestione delle esportazioni e sviluppo imprenditoriale. E quindi un corso che si articola in due parti, una prima parte di 2 mesi che è composta da lezioni in aula intensive orientate alla trasmissione di conoscenze utili per saper costruire un cosiddetto business plan, cioè un piano di affari per un'azienda che si vuole espandere in un determinato mercato. Il corso è riservato a persone, ad allievi che sono discendenti di emigranti italiani. Quanti sono gli allievi e da dove arrivano? Si conclude oggi il corso per 18 allievi che provengono da paesi quali l'Australia, il Sudafrica, il Canada, il Messico, il Venezuela, l'Uruguay, il Brasile, l'Argentina, il Cile. Quindi abbiamo 9 paesi rappresentati. E qual è l'importanza di un progetto di studi e di scambio come questo per la nostra regione? C'è una duplice importanza. La prima è quella di aiutare le nostre imprese ad esportare meglio nel mondo, e quindi questi giovani nei secondi 3 mesi ognuno di loro va a fare uno stage in un'azienda italiana e durante quei 3 mesi preparano questo progetto finale di espansione per l'azienda. La seconda grande importanza di questo progetto è quello di riavvicinare le giovani generazioni dei nostri emigrati alla madrepatria italiana. Facendoli venire qui per 5 mesi li si ricollega con la terra, col territorio, con la lingua, con la cultura, con i modi di essere, di fare, i modi di pensare e quant'altro, e questo ha un valore inestimabile. Torna anche quest'anno a Valbruna, nel Tarvisiano, il Festival Green del Friuli Venezia Giulia Nano Valbruna, che riunirà tra il 27 luglio e il 1 agosto scienziati, imprenditori, docenti, professionisti del settore, con una grandissima partecipazione di giovani, per parlare di ambiente e tutela degli ecosistemi nel segno del tema dell'edizione 2023 Cibo, Agricoltura e Sostenibilità. Tante le attività previste, tra workshop formativi, appuntamenti con aziende innovative, incontri one to one e poi meeting with tra scienziati, imprenditori, ricercatori, manager e studenti. Previste anche le green experience, escursioni nel segno del turismo sostenibile e gli appuntamenti per i giovanissimi con nano picciole. Spicca anche quest'anno il contest di portata internazionale Byte Innovation Award, organizzato da Regeneration Hub Friuli in collaborazione con l'Accademia di Gagliato Globale, un concorso di idee rivolto ai giovani ricercatori, studenti, aspiranti, imprenditori chiamati a presentare i loro progetti di startup innovative entro il 31 maggio prossimo. Le iscrizioni al challenge sono già aperte sul sito nanovalbruna.com. Sono due ricercatori padovani, gli scienziati divulgatori che ieri hanno vinto la tappa triestina del Talent Fame Lab. Questi aspiranti Piero Angela, oltre al premio in denaro, hanno ricevuto il pass per la finale nazionale in programma il 30 settembre a Perugia. Sentiamo com'è andata nel servizio. Bello innamorarsi, sì. Bello il cavolo innamorarsi. Per colpa di Eros e per colpa della dopamina non ci diamo pace. Allora, chiunque di voi abbia mai avuto un animale a casa sicuramente avrà vissuto la sensazione di dire: mi sta dicendo qualcosa, peccato che non abbia le parole per dirmelo. Sul palco della Sala Luttazzi in Porto Vecchio, con un microfono in mano, per 3 minuti si sono sfidati i giovani scienziati divulgatori di Fame Lab, il talent che si è svolto ieri, organizzato dagli Atenei di Trieste e Udine, immaginario scientifico e SISSA, nell'ambito del protocollo Trieste Città della Conoscenza. La giuria di esperti ha assegnato il primo posto ex aequo a Lucia Zanetti e Angelo Scopano, entrambi ricercatori dell'Università di Padova. Parleremo di materie prime critiche e vi chiedo di immaginarvi un dialogo tra me ed un ominide. 3, 2, 1, si parte. Ciao! Oh, piacere, io sono Angelo, sono un essere umano, quello che diventerai tu tra circa 3 milioni di anni. Oh, quanta strada che abbiamo fatto come specie, lascia fare. In sala 200 studenti delle scuole superiori di Trieste e Gorizia. Mi sono divertita, però allo stesso tempo ho imparato cose nuove che non sapevo e l'ha spiegato molto, molto bene e con semplicità. È stato molto interessante tutto, sono stati molto bravi a spiegare. Ospite fuori concorso l'astrofisico Thomas Gasparetto ed ex concorrente del Talent Fame Lab, che ha raccontato i suoi 12 mesi in Antartide per conto dell'Osservatorio Astronomico di Trieste. Ho parlato della mia esperienza in Antartide di questo anno, che ho trascorso alla base Concordia come astrofisico, appunto, curandomi di 2 telescopi e in particolare per tutto il periodo dell'inverno, che dura 9 mesi, in cui in 13 persone si rimane completamente isolati dal resto del mondo. Impegnarsi nella divulgazione scientifica anche ai ragazzi serve nella vita professionale poi? Secondo me serve moltissimo, perché aiuta veramente molto a imparare a parlare con i ragazzi, imparare a parlare con le persone, imparare a parlare meglio anche con i propri colleghi, quello sicuramente aiuta a 360 gradi, sì. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli Abbracciando stretta la vita, il giovane Carlo Michelstetter e Gorizia, famiglia, amori, amici. È il titolo dello spettacolo, che nasce dal progetto della Civica Accademia Nico Pepe, condiviso con il Teatri Stabil Furlan, in scena al Teatro San Giorgio a Udine domani, da un'idea originale di Antonio Devetag. E di nuovo in tour in regione l'attore udinese Giuseppe Battiston, che sarà protagonista dello spettacolo La valigia, in viaggio con Dovlatov, adattamento teatrale dello stesso Battiston e di Paolo Rota, dal libro Cemodan di Sergei Dovlatov. Sarà in scena stasera alle 20:30 al Palamostre di Udine. Il dramma La madre, con cui Florian Zeller indaga il tema dell'amore materno e le sue possibili derive patologiche, al Teatro Bobbio di Trieste, nel nuovo allestimento diretto da Marcello Cotugno, interpretato da Lunetta Savino e Paolo Zuccari. Oggi alle 20.30, domani domenica alle 16.30 e alle 20.30, la replica cancellata ieri venerdì sera. Il legame fra Pierpaolo Pasolini e padre David Maria Turoldo, anime friulane che hanno percorso le strade del mondo nel Novecento dalla parte degli ultimi, questo è il tema del docufilm Stare al mondo, Turoldo e Pasolini, scritto da Elisa e Marco Roncalli e diretto da Omar Pesenti, che sarà proiettato oggi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle 17.30 nel corso di un incontro dal titolo Amicizie e testimonianze Pasolini, Turoldo, Castiglione. Per il 27esimo FVG International Music Meeting alle 18 a Palazzo Regazzoni a Sacile, omaggio a Robert Schumann del trio Braga, Ronchini, Redaelli. Esecuzione della messa per la pace del compositore friulano Walter Poles nel Duomo di Porcia alle 21 con il coro Città di Piazzola sul Brenta, orchestra Tiepolo, Friuli, Venezia Giulia, direttore il maestro Paolo Piana. A Udine, la 16ª edizione della rassegna Note Nuove di Euritmica chiuderà la prima parte primaverile alle 20.45 al Teatro San Giorgio con il duo pianoforte e voce di Bruno Bavota e Chantal Akda. Oggi alle 20.30 al Teatro Silvio Pellico di Trieste in scena la Compagnia dell'Armonia con lo spettacolo Sottobanco di Domenico Starnone in un adattamento in dialetto triestino. Altri eventi di oggi. Terzo appuntamento con gli eventi collegati alla mostra Sotsas Spazzapan in corso alla Galleria Spazzapan di Gradisca di Sonzo. Alle 18 Simona Riva e Francesca Zanella proporranno Ettore Sotsas e il design radicale, un incontro pubblico. Si concludono oggi le visite guidate alla mostra La scultura nelle raccolte del Museo Revoltella da Canova al XXI secolo, il grande evento espositivo che celebra i 150 anni dalla fondazione del Museo Triestino, la più antica galleria pubblica in Italia dedicata all'arte moderna. A guidare i visitatori alla scoperta delle circa 60 opere in mostra è Susanna Gregorat, conservatore del Museo Revoltella e curatrice della mostra alle 17. Alle 18 alla Galleria d'Arte La Fortezza di Gradisca di Sonzo la personale di Antonio Colmari. Saranno presentati 20 disegni ai quali si accosteranno altrettanti inserti poetici di Francesco Tomada a costituire un'opera unitaria intitolata Gemütlichkeit, Intimità. Nuovo appuntamento con le mostre del progetto Arte e Territorio promosso dall'Associazione Le Ali delle Notizie. A Ronchi dei Legionari alle 18 inaugura Visioni dell'Anima di Maria Grazia Persolia nella sala espositiva dell'Associazione in Piazzetta Francesco Giuseppe I. A Udine, alla Galleria La Loggia in Piazza Libertà, Instead, mostra personale di Eleonora Colavin e Marina Bonifacio. Alle 18 alla Galleria Rettori Tribio di Piazza Vecchia a Trieste apre la 33ª mostra del piccolo formato, mostra collettiva di pittura, scultura e grafica con la partecipazione di 200 artisti fino al 14 aprile. Alle 11 alla Libreria Lovat di Trieste, laboratorio di Nicoletta Costa che presenta Ascolta e disegna con Giulio Coniglio e Nuvola Olga per i bambini dai 3 ai 5 anni. 24 ore di fotografia a Trieste organizzate dalle associazioni Dot Art e Exhibit Around APS finalizzate alla scoperta della regione e a partecipazione gratuita. Oggi appuntamento alle 9 alla chiesa di Sant'Antonio. E adesso lo sport, cominciamo dalla pallanuoto, 10ª giornata di ritorno del campionato di Serie 1 maschile. La pallanuoto Trieste sarà impegnata sul campo della De Acker Bologna, si gioca alle 18 dopo l'eliminazione in semifinale di Eurocup. La sconfitta nello scontro diretto con il Telimar Palermo ha allontanato quasi definitivamente il quarto posto. I siciliani sono ora a più 7 e la conseguente qualificazione alle semifinali scudetto, ma resta viva fino all'ultimo per la Pallanuoto Trieste la speranza di agganciare i playoff. Basket Serie A2, al via per la Gesteco Cividale la fase a orologio che precede i play-off. Giocherà alle 20 al Pala Perusini contro Urania Milano. Domani sarà invece la volta dell'APU Udine al Carnera contro Piacenza alle 18. Le due friulane affronteranno sia in casa che fuori Torino, Urania Milano e Piacenza. La classifica provvisoria del gruppo vede Cividale, Torino e Urania Milano in testa con 6 punti, seguite dall'APU con 4, dalla Fortitudo Bologna con 2 e Piacenza con 0. Il basket femminile di A2, Women Up del Ser Udine, ospita la Velkofin Interlox Vicenza, Palla 2 sabato alle 19 al Palasport Benedetti. Le Volpi di coach Massimo Riga sono quarte in classifica, quota 36 punti e sono reduci da 4 vittorie consecutive. Le Beriche occupano il penultimo posto a quota 10 punti. Nelle fila della Velkofin c'è anche Vanessa Sturma, ala di Lusevera, cresciuta nel settore giovanile udinese. Pallavolo, anticipo della A2 femminile per l'Itas Martignacco, che affronta a Castellanza, in provincia di Varese, la futura Giovani Busto Arsizio per la quarta giornata di andata della pool promozione. Inizio alle 20:30. E con la matematica certezza della qualificazione ai playoff già in tasca, la Pallamano Trieste ritorna al Palla Chiarbola per affrontare alle 19 il Cassano Magnago nella penultima giornata di campionato. Partita fondamentale, la definita di SO Veglia, sia per mettere in ghiaccio il secondo posto che per posizionarsi meglio nel sorteggio playoff. E prima della gara di campionato, nell'atrio del Palla Chiarbola verrà inaugurata la mostra fotografica allestita da Erwin Scalamera e dedicata ai primi 30 anni 1970-2000 di storia del sodalizio bianco-rosso, immortalati negli scatti di Andrea Lasorte e Francesco Bruni. Inaugurazione alle 18. Alle 7:48 iniziamo la nostra rassegna stampa. Regione, ultimi appelli al voto è il titolo di oggi del Piccolo di Trieste, che in prima pagina dedica 4 richiami agli ultimi appuntamenti dei candidati alla presidenza. A centropagina una fotonotizia sull'acquario di Trieste, la cui riapertura slitta a giugno. Altri richiami sono dedicati al mercato immobiliare che torna a correre, alla protesta in piazza delle guardie giurate, alla tappa triestina del talent show Fame Lab, di cui abbiamo parlato, e all'organizzazione di Cecilia Strada, la figlia del fondatore di Emergency, che è arrivata in Piazza Libertà con i CS per aiutare i migranti. In basso, infine, la cultura, con l'anticipazione del programma del Festival Scienza e Virgola, al via il 4 maggio. Sempre all'acquario è dedicata l'apertura delle pagine di cronaca cittadina. Acquario ancora chiuso, collaudo e permessi fanno slittare a giugno la riapertura dell'impianto sulle rive, ma sono quasi pronti nel magazzino 26 del Porto Vecchio i reperti che erano a Campo Marzio. E anche il Messaggero Veneto di Udine dedica buona parte della prima pagina alla chiusura della campagna elettorale dei 4 candidati alla guida della regione. Di spalla telecamere e allarme per proteggere i medici dalle aggressioni. Poi sotto 10 mesi di condanna, sospesi con la condizionale per una coppia viennese per aver camuffato l'auto come quella dei carabinieri. L'auto era stata regolarmente acquistata in Austria, in realtà un modello simile a quello che i due avevano visto in un film. Somigliante ma non identica, dice la difesa, che valuterà l'appello. E sotto Lignano si prepara, cominciati i lavori per attrezzare l'arenile. E ancora i 70 anni di Zaccheroni, l'allenatore dell'Udinese, del terzo posto. Sul Gazzettino, oltre alla chiusura della campagna elettorale, la fotonotizia per Gemona, l'illuminazione pubblica si fa più smart, accanto il mancato accordo al tavolo di Aquileia Capital Service. E sotto il ritorno del campionato di calcio di Serie A, domani l'Udinese a Bologna e la Gesteco che oggi apre la fase a orologio del basket di A2. Sul Piccolo, edizione di Gorizia, dopo il titolo sulle elezioni regionali, la fotonotizia sulla centrale elettrica a carbone A2A di Monfalcone, che smetterà l'attività ad aprile e sarà riattivata solo per le emergenze. Notizia che apre anche la cronaca di Monfalcone. I richiami sono sul processo per il bambino morto nel pozzo, di cui abbiamo dato conto nel nostro giornale, e sul Ramadan in classe, con la richiesta di linee guida precise per gli insegnanti. Le pagine della cronaca di Gorizia sono invece aperte da una notizia sulla chiesa di Sant'Ignazio. Tetto a nuovo con l'8 per 1000, stanziata risorse anche dalla regione e dall'arcidiocesi. Sarà rifatta anche la copertura della canonica. Sul Gazzettino di Pordenone, nella fotonotizia, il dono misterioso lasciato in riva all'Ivenza, vestitini sulla panchina, sui pacchetti un bigliettino con indicata la taglia degli abiti per bambini. Di spalla la cronaca, Pordenone raid di furti di biciclette in stazione, poi l'addio a Elio Dalmas, imprenditore della ristorazione, ha fatto del Befed un vero impero. In taglio basso il calcio, domani nero-verdi a Busto Arsizio, vincere per sperare ancora nella Serie B. Sul Messaggero Veneto, rispetto all'edizione di Udine, cambia la colonna di cronaca, gli effetti della siccità sul Noncello, navigazione a rischio sotto la morte di Elio Dalmas. Nel 96 fondò la catena Befed e poi Sagra dei Osei di Sacile, sequestrati 28 uccelli, denuncia per ricettazione, fa sapere la LAV, l'episodio risale al 2021. Oggi e domani Emergency sarà in alcune piazze della regione con la colomba di pace. Acquistandola si contribuirà alla realizzazione dei progetti umanitari in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda e Italia. Il dolce pasquale ha un costo di 18 euro. L'iniziativa sarà presente a Trieste, Pordenone, Udine, Cervignano e Spilimbergo. E a causa delle avverse previsioni meteo, la manifestazione Apertura Sentieri, programmata per oggi a Stolvizza di Resia, è rinviata a data da destinarsi. I tracciati curati dall'Associazione Vivi Stolvizza sono comunque da oggi aperti e percorribili per tutto il periodo estivo fino al 29 ottobre. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos. Nella prima parte della puntata sarà ospite la vincitrice del premio Saba Poesia 2023, la poetessa Vivian Lamarck. Il suo ultimo lavoro è L'amore da vecchia. A seguire Denise Pardo, autrice del romanzo La casa sul Nilo e la storia della sua famiglia appartenente alla comunità italiana del Cairo, che nel 1961 dovette abbandonare tutto e partire a causa della politica nazionalista del presidente Nasser. È tutto per questa prima edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia, in regia Mauro Ciccarelli e Bruno Montevecchi. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Daniele Letti, Geri Tamicoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.